Birgitta. Andò a piazzarsi sulla strada principale. Quando arrivò la macchina della polizia, esattamente 13 minuti dopo che aveva chiamato il 112 secondo il suo orologio, si mise ad agitare freneticamente le braccia. L'ululare della sirena tacque. Due poliziotti, un uomo e una donna, la osservarono con espressione seria, senza scendere dall'auto. L'uomo teneva le mani sul volante. Il finestrino si abbassò e Birgitta indicò il folto del bosco. «Laggiù! È laggiù! Mio Dio, è spaventoso!» «Ci accompagni, ci mostri il punto esatto», ordinò il poliziotto in tono perentorio. Birgitta annuì, con il cuore che batteva all'impazzata. Aprì la portiera posteriore e salì a bordo. Subito dopo si inoltrarono fra gli alberi. «Meno male che siete arrivati. Non sapevo cosa fare, credo che sia morto. È orribile. Poveretto, povero uomo». I poliziotti erano silenziosi. La donna si voltò a osservarla con sguardo indecifrabile. Che dubitassero di lei? Disse loro di fermarsi un paio di metri prima del cavo. Scesero lasciando il motore acceso con i fari che illuminavano il bosco. La donna guardò la macchina a noleggio. «È sua?» «Sì, è la mia, ma...» «Non c'è problema, ci faccia vedere il punto». Birgitta li precedette nel bosco. «È lì, poveretto. Non capisco come sia successo». I due poliziotti si avvicinarono al corpo, bisbigliando tra loro. La donna si portò una mano alla spalla e disse qualcosa alla radio. Birgitta si guardò nervosamente attorno nel buio. Aveva commesso un omicidio e adesso stava mentendo a due agenti. Ma ai loro occhi era solo una maestra confusa. Una testimone che aveva fatto il suo dovere chiamando la polizia. «Può tornare alla macchina?» Era stata di nuovo la donna a parlare. «Posso andarmene?» «No, vogliamo parlare con lei. Ci dia un minuto». Mentre aspettava, Birgitta fece un altro tentativo di trovare le chiavi, senza risultato. Anche la batteria del cellulare era scarica. Jacob ormai doveva chiedersi dove fosse finita. Tra 10 minuti, la cena doveva essere in tavola. Urgeva pensare a una spiegazione, appena via di lì, come se potesse servire a qualcosa. Aprì la portiera posteriore dell'auto della polizia e si sedette senza richiuderla, lasciando i piedi a terra. I due agenti tornarono verso di lei e Birgitta si chinò in avanti con la testa fra le mani. «Sta bene?» chiese l'uomo. Le stava più simpatico della sua collega. Sembrava più morbido, meno allerta. Birgitta annuì, deglutendo teatralmente un paio di volte. «Come si chiama?» chiese ancora il poliziotto, accovacciandosi davanti a lei. «Birgitta. Birgitta Nilsson. La sua macchina. È senza targa e ha un finestrino spaccato». «Lo so», bisbigliò Birgitta. «Cos'è successo?» «Me l'hanno aperta a Sala». Alzò gli occhi. La donna stava puntando la torcia verso l'albero a cui Birgitta aveva legato il cavo. «Thomas, guarda qua», disse andando verso l'albero. «Un cavo. Un cavo del cazzo». Il collega si alzò e si infilò i guanti. Esaminarono attentamente il cavo prima di tornare da Birgitta, che si sforzava di apparire incredula. «Quindi non è stato un incidente», mormorò. «È questo che state dicendo?» I due poliziotti si scambiarono un'occhiata. «Non lo sappiamo». «Cosa hanno preso?» chiese la donna. «Chi?» «Quando le hanno aperto la macchina». «La borsetta e le targhe». L'uomo si avvicinò all'auto e la illuminò all'interno. Quando tornò, Birgitta cercò di leggere la sua espressione. «C'era qualcosa che non quadrava? Non le credevano?» L'uomo si schiarì la voce. «Ha denunciato il furto?» Birgitta scosse la testa, sforzandosi di apparire affranta. Non era difficile. «No, non ancora. Pensavo di farlo stasera, appena arrivata a casa». «Abita in zona?» «No, a Stoccolma. Sono stata a trovare mia sorella Gunilla a Sala. È ricoverata. Ed è stato lì, nel parcheggio dell'ospedale, che mi hanno aperto la macchina. Volevo solo tornare a casa». Il poliziotto si addolcì un pochino e le posò una mano su una spalla. Lei alzò gli occhi e gli sorrise. «Cosa ci fa qui se doveva tornare a Stoccolma?» «Ho sbagliato strada. Di 20 chilometri?» «Non ho mai avuto un gran senso dell'orientamento. Volevo fermarmi a Abby a mangiare qualcosa, ma devo averla superata senza accorgermene e ho svoltato qui, nel bosco, per cercare di tornare indietro. E poi è successo quello che è successo.» Quando la radio si mise a gracchiare, entrambi gli agenti alzarono una mano per farle segno di tacere. Ascoltarono. Birgitta si asciugò le mani sudate sui pantaloni. «Quindi ha visto l'incidente?» «No, ma ho sentito un rumore tremendo. Ero molto spaventata, sapete? Ma ho pensato che forse qualcuno si era fatto male e sono scesa a guardare. Ed è stato allora che l'ho trovato.» «Ha un documento?» chiese la donna. Era un'ombra di sospetto quella che le vedeva sul viso. Birgitta scosse la testa. Forse era il caso di provare a spremere qualche lacrimuccia. «Era nella borsetta che mi hanno rubato», rispose Mogia. «Voglio solo tornare a casa da mio marito. Che giornata terribile. Non so come farò ad andare a scuola dai miei bambini domani. Forse mi darò malata. Sono una maestra, sapete? Ma a...» Il poliziotto posò una mano sul braccio della collega. «Ci scusi un momento.» Si allontanarono di qualche metro. Birgitta non poteva sentire cosa dicevano, ma sembravano in disaccordo. Lanciò un'occhiata verso la macchina a noleggio. Le targhe erano nascoste sotto il telaio. Non aveva osato buttarle nel bosco per paura che le trovassero non appena avesse fatto giorno. La borsetta e la bomboletta spray erano sotto il sedile. Se avessero perquisito l'auto, avrebbero capito che era stata lei a legare il cavo agli alberi. I due poliziotti tornarono nella sua direzione. L'uomo urtò qualcosa con un piede. Poi si chinò e lo raccolse tra il pollice e l'indice. Erano troppo lontani perché Birgitta potesse vedere cos'era. «Credo che queste siano sue», disse porgendole qualcosa. Le veniva da vomitare. Cosa avevano trovato? Guardò la mano dell'uomo che stringeva qualcosa di luccicante, le chiavi della macchina. «Devo averle... Oh, signore, grazie, agente, devo averle perse quando vi sono venuta incontro.» Le prese. «Lasci il suo nome, codice fiscale e un numero di telefono e può andare», aggiunse lui con un sorriso. La sua collega, ferma con le braccia conserte a un paio di metri di distanza, non sembrava per niente d'accordo. Birgitta borbottò a mezza voce il suo codice fiscale. Il poliziotto l'accompagnò alla macchina. «Ce la fa a tornare a casa?» le chiese prima di chiuderle la portiera. «Sì, ci provo. Andrò piano. Grazie, agente.» Infilò le chiavi nell'accensione e mise in moto. Stava per andarsene quando sentì bussare al finestrino. Trasalì, ma riuscì ad abbassare il vetro con dita tremanti. «Non dimentichi di denunciare il furto», disse il poliziotto.